Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Dentro di me non potevo accettare che per una stupida amichevole un talento del calcio potesse avere smesso di giocare a pallone in Serie A. Tuttavia, la cosa strana è che in Pallomeni, al contrario di me, non trasmetteva rancore nei confronti di Billy Costa Curta. Le scuse sono un po' come il ghiaccio sulle distorsioni. Sai quando ti fai male e ti dicono metti il ghiaccio subito? Se non lo applichi subito, poi quasi non serve più. Sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24, il programma è Voi siete qui, ancora per tutto il mese di giugno in diretta e poi a seguire ci sarà una sorta di meglio di per tutto il mese di luglio, a raccontare storie, a raccontare una storia al giorno. La storia di oggi è la storia di Filippo che ci racconta un episodio legato alla sua vita, che è quello che chiediamo di raccontare a tutti gli ascoltatori che ci scrivono le storie. Però questo episodio, come è capitato, si allarga e abbraccia dei fatti di cronaca, in questo caso di cronaca sportiva. Questa cronaca sportiva, che a breve vi racconterò grazie alle parole di Filippo, ha a che fare con il chiedere scusa. Ascoltatevela tutta la puntata, perché all'inizio uno potrebbe quasi innervosirsi, poi alla fine in realtà lo svolgimento, come tutte le storie, ha un inizio, uno sviluppo e un finale che in qualche modo chiude la questione. Se però voi oggi avete qualcuno a cui dovete chiedere scusa e non l'avete ancora fatto, perché appunto non avete messo il ghiaccio subito appena vi siete fatti male, avete fatto passare del tempo, il dolore poi lentamente si è affievolito e non avete più trovato il modo, non avete più trovato il tempo, non avete più trovato le parole giuste per chiedere scusa, oggi basta farlo. 349-238-6666 con un semplice scusa a e perché. Il motivo per cui dovete dare le vostre scuse a qualcuno, chi è, chi siete voi. Insomma, la solita questione quando mandate un SMS, 349-238-6666 se avete un telefono sotto mano, se avete un profilo Twitter, voi siete qui R24 o altrimenti voi siete qui Radio 24. Come hanno fatto tra gli altri Chiara, che dice: devo chiedere scusa a mio padre perché faccio solo quello che voglio io e ogni volta che mi consiglia gli rispondo male e non lo ascolto, ma non gli chiedo scusa perché so che se no dovrei farlo tutti i giorni. Vabbè, quindi vale una per tutte. Lucia: mia sorella, solo familiari. Riccardo: la mia amica Chiara che mi sopporta, mi vuole bene. Insomma, rischiamo di diventare una sorta di trasmissione di scuse o di, no, come si chiama, di dediche. Ti ricordi la terribile trasmissione di dediche? Noi non dedichiamo nulla a nessuno, non dedichiamo canzoni o brani di film, semplicemente la possibilità di chiedere scusa a qualcuno. 349-238-6666. Il 27 di giugno, ormai lo sapete credo abbastanza chiaramente, facciamo la festa finale del programma. Vi ho anche spiegato, ho cercato di spiegarvi ieri, spiegandolo a mia madre, quindi spiegandolo a tutti, come ci si iscrive al live del 27 di giugno, che è gratuito, è qui a Milano e comincia alle 9. C'è una scheda da compilare online sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui, la trovate sulla sinistra della pagina, c'è una mia foto del live dell'anno scorso. Cliccate sopra, vi chiediamo nome, cognome, quelle cose lì. E semplicemente dopo aver cliccato invia, cliccate su stampa. Dovreste arrivare, non serve biglietto, ma con la fotocopia di quella cosa lì. Perché semplicemente abbiamo deciso che si fa così. Con la fotocopia, la stampa, insomma, quello che è il pezzo di carta che testimonia che vi siete iscritti. Margherita Ina mi chiede di dire ufficialmente di non scriverle più, nel senso che lei non sta gestendo questa cosa, la sta gestendo Elisa, Elena, Luisa del marketing. Lei non riesce a tenere insieme tutte le mail che le arrivano dicendo: buongiorno Margherita, ho provato a iscrivermi, solo che l'ho fatto tramite un tablet. Da quel momento non sono riuscito a stampare la mia richiesta di accredito. Come faccio? Niente, magari accedete attraverso un computer che è collegato con una stampante o inviatevi una mail, insomma, di solito computer più stampante è la cosa più facile. Vi ricordo il sito, è radio24.it, la pagina di Voi siete qui. Compilate la scheda e ci vediamo il 27 di giugno alle 21, qui dalla sede di Radio 24, via Monterosa 91. Andiamo alla storia, si parla di scuse, si parla di calcio e si parla di calciatori di Serie A. Qualche anno fa mi chiamò la mia amica Sara per raccontarmi che aveva conosciuto un ex giocatore della Roma. Io allora amavo il calcio e soprattutto ero malato della Roma, e alla notizia cercai subito di capire chi fosse quel misterioso giocatore. Sara mi rispose che si trattava di Stefano Impallomeni. Io quel nome me lo ricordavo, aveva un cognome così strano che era impossibile scordarselo. Una sera poi finalmente me lo presentò. Io ovviamente iniziai a bombardarlo di domande, chiedendogli di raccontarmi storie, storielle, segreti di quando giocava nella Roma. Lui subito mi apparve come una persona molto gentile e disponibile a parlare e mi raccontò di quando giocava con Conti, con Pruzzo, con Ancelotti. Mi raccontò di quando Maradona venne a Trigoria per i mondiali del 90 e con gli stivali Camperos mise la palla proprio sotto l'incrocio dei pali. E poi iniziai a chiedergli della sua vita e di quando aveva smesso di giocare a pallone. Prima mi raccontò che si era iscritto a giurisprudenza e poi mi disse perché aveva attaccato gli scarpini al chiodo. Dopo aver firmato un importante contratto con la Roma, venne mandato a farsi le ossa al Parma. Durante un'amichevole estiva contro il Milan, il difensore Billy Costacurta gli ruppe una gamba. Quello che cercò subito di farmi capire è che il fallo che subì fu del tutto gratuito, perché si trattava di un'amichevole, e inutile, perché lontano dall'area di porta. A seguito di quell'incidente venne sottoposto a tutta una serie di interventi chirurgici, che tuttavia non lo guarirono mai dall'incidente. A quel punto gli chiesi: «E come si è scusato Costacurta?» Alla mia domanda, lui rispose che Costacurta semplicemente non l'aveva fatto. Ecco, io da una parte ero triste per avergli fatto raccontare una storia che probabilmente aveva già raccontato centinaia di volte, e dall'altra ero un po' arrabbiato, in quanto non potevo credere che non gli avesse fatto neanche una telefonata di scuse. Dentro di me non potevo accettare che per una stupida amichevole un talento del calcio potesse avere smesso di giocare a pallone in Serie A. Tuttavia la cosa strana è che in Pallomeni, al contrario di me, non trasmetteva rancore nei confronti di Costacurta. Mi spiegò che quando giochi a pallone a livello professionistico metti in preventivo che puoi subire un incidente simile. Certo, puntualizzò il fatto che il fallo era stato duro e che una telefonata di scuse ci stava, ma subito dopo aggiunse che anche lui alla fine avrebbe potuto farne uno simile. Era strano, mi dava la sensazione che lo avesse perdonato. Incontrai in Pallomeni un altro paio di volte e ogni qualvolta lo rividi non potei non ripetergli che era assurdo che non potesse avere rancore verso chi gli aveva troncato la carriera. E lui, alle mie arrabbiature, mi ricordo che rideva. Poi, a un certo punto, persi completamente le sue tracce. Io però ogni volta che vedevo il faccione di Costacurta sui maxischermi dell'Olimpico, al momento delle formazioni non potevo non ricoprirlo di fischi e di improperi. Diciamocelo, Costacurta era un vincente, era pieno di soldi, con una moglie bellissima. E soprattutto era un giocatore del Milan che vinceva tutto. Non gli potevo volere bene. Poi qualche anno fa rivedo in Pallomeni, fa l'inviato dalla Roma per Sky. È bravo, parla bene, capisce di calcio. E allora mi convinco che alla fine gli è andata bene comunque. In fondo ha un bel lavoro. E mi dimentico della sua storia. Poi una mattina di luglio di 5 anni fa sono in spiaggia ad Anzio e sul Corriere della Sera mi ritrovo di nuovo il volto di Costacurta che dice addio al mondo del calcio giocato. Già il titolo dell'intervista mi fa arrabbiare: Billy Costacurta, l'antipatico che piace. E poi le solite domande stupide tipo: con quali sentimenti ti prepari all'addio? Qualche giocatore che ti ha mai fatto avance? Ma a un certo punto trovo quello che non mi aspetto. La domanda delle domande, per me quantomeno, è la risposta delle risposte. C'è qualcuno a cui devi chiedere scusa. E Billy risponde: a Stefano Impallomeni. Gli ho rotto una gamba ed era un talento. A quel punto, tra gli ombrelloni, al mese di luglio, prima mi metto a ridere e poi mi vengono le lacrime. Mia moglie non capisce e si preoccupa, io la rassicuro, va tutto bene. Billy gli ha chiesto scusa, dopo 20 anni finalmente, e anch'io l'ho perdonato. When I think of you in the city, the sight of you among the sights, get this sudden sinking feeling of a man about to fly. Never kept me up before, now I've been awake for days. I can't fight it anymore, I'm going through an awkward phase. Scusarsi è difficile, me lo ricordo perché Fonzi neanche riusciva a farlo. Fonzi era ovviamente un personaggio di Happy Days e ricordo che era talmente figo che pensava di non sbagliare mai e quindi non aveva mai imparato a scusarsi. Poi a un certo punto della serie, quando diventa un po' il cocco della famiglia di Ricky Cunningham, allora diventa una persona per bene e impara anche a farlo, a scusarsi. che poi è il suo modo per entrare nella comunità delle persone civili, perché tutti possono sbagliare, no? Capita. Però se uno si scusa è meno grave. E fare le proprie scuse ha dei significati precisi. Non è che se uno ti pesta un piede in discoteca, ad esempio, e poi si scusa, allora il tuo piede farà meno male. No, ovviamente. Lui ti ha pestato il piede e su quello non ci puoi fare nulla. Però se non si scusa, tu rimarrai nervoso per tutta la sera. Mentre se si scusa, sarai un po' più sereno. Con il male al piede, ovviamente, però sereno. Perché lì e qui il male al piede non c'entra nulla. È tutta una questione di rapporti tra le persone. Se quello che ti ha pestato il piede ti dice che gli dispiace molto, intanto capisci che non l'ha fatta apposta. Cioè, non è venuto lì pensando di farti male e ti ha pestato il piede. E questo già in sé è rassicurante. E poi vuole anche dirti che sei una persona, ti riconosce il valore sufficiente per sforzarsi di scusarsi. Insomma, non sei un divano. E anche questo fa bene. Inoltre ti segnala che cercherà di non farlo più, quantomeno, e questo fa piacere per te e per gli altri, ovviamente. Se invece quel tizio che ti ha pestato il piede non si scusa, oltre al male, finisce che ti senti un po' una vittima e hai la sensazione che qualcuno possa averti dato fastidio proprio perché eri tu e che magari lo rifarà. E la serata va malissimo. E può succedere in molte altre situazioni. Un po' come quando da bambino ruppi lo zaino Invicta a Francesco. Era più o meno il periodo in cui guardavo Happy Days in TV. Andavo alle medie. I più fortunati avevano lo zainetto di marca. Francesco aveva un Invicta giallo e blu, un classico. Eravamo compagni di classe e amici. E quando si stava in cortile si giocava a pallone, si lottava, insomma, come fanno i bambini. E un giorno, mentre rientravamo in classe, per scherzo volevo tenerlo fermo sulle scale e lo presi per lo zaino, solo che lo afferrai male e gli ruppi la tasca. Me ne sono accorto subito, però ho fatto finta di nulla. Lui invece ha visto il pezzo di tela gialla penzolante solo quando siamo rientrati in aula e ha capito che ero stato io, poco prima sulle scale. Non l'avevo fatto apposta, ovviamente, e a me bastava quello, io ero a posto con la mia coscienza. Sarebbe potuto succedere anche lui, mica gliel'avevo rotta apposta, e lo so che avrei dovuto scusarmi subito, ma non l'ho fatto. Era solo una tasca e non l'avevo mica fatto apposta, insomma, questo era quello che pensavo. Quindi mi sono limitato a guardare la prof che doveva interrogare e a far passare un po' di tempo. Poi è suonata l'ora e c'era un compito in classe. Poi si è messo a piovere e a luna siamo andati a casa. Sentivo che c'era qualcosa che non andava e anche Francesco era strano. Nei giorni successivi ho pensato che forse avrei dovuto dirgli che non l'avevo fatto apposta a rompergli lo zaino, ma non trovavo mai il momento giusto. Forse bastava chiedergli scusa, anche solo una parola. Scusarsi però è una di quelle cose che va fatto subito, se no sembra che te l'hanno suggerito. Scusa a Elisabetta di Acquiterme, mi sono proprio comportato male con lei. Dopo 25 anni mi vergogno ancora. Leo. Chiedo scusa a chi mi vuole bene, perché ogni volta che l'Inter gioca a San Siro io devo essere allo stadio. E se c'è qualcosa o non, e se c'è qualcosa di importante, o non vado o sono poco presente. Giorgio. Chiedo scusa a mia zia, chiedo scusa ai miei. Poi ancora chiedo qualcuno scrive: Tiziano, questo mi sa che era un po' per te, Paolo. Meraviglioso brano di Elton John in tema con la puntata. Ci suggerivano Elton John. Sorry seem to be the hardest word. Tra l'altro, io realizzo adesso, grazie a questo messaggio di Paolo, di avere canticchiato per una vita una parola sbagliata. Io credevo che questa parola fosse, questa canzone fosse Sorry seem to be the hardest word. Cioè, scusami, credo che sia il mondo più difficile, e invece è scusa, credo che sia la parola più difficile. Va bene, chiedo scusa a questo punto a Elton John per averlo travisato. Io vorrei chiedere perdono a me per essere stata sposata a un uomo a 29 anni senza che lo meritasse. Qui rientra a far parte di chi crede che l'amore si meriti oppure no. A mia zia Luigina per quell'equivoco sulla cresima di Letizia. Ti spiego, spiegaci qual è quell'equivoco sulla cresima di Letizia. E poi ancora, chiedo scusa a mio fratello, sono stata io a perdere lo squalo giocattolo, per cui a 8 anni hai pianto per 6 mesi. Scusa, ma da arrabbiato mi facevi paura. Rosa, Rosa, accettiamo le scuse, perché almeno tu hai una buona scusa per non aver chiesto scusa, che da arrabbiato tuo fratello faceva veramente paura. 349-238-6666. Visto che oggi parliamo in qualche modo di calcio, ma ne parliamo come se fossimo dietro le quinte, lo faremo più tardi al telefono direttamente con Stefano Impallomeni, che adesso fa il giornalista, e faremo una chiacchierata con lui direttamente per parlare un pochettino di questa storia che ci ha raccontato Filippo. Io però in questi mesi mi sono innamorato di un libro che arriva dall'Inghilterra, che si intitola Io sono il calciatore misterioso, che racconta in questo caso la Premier League, il calcio inglese, ma di fatto il calcio di alto livello, dal punto di vista di un calciatore che non gioca più, che è un ex calciatore e che rimane appunto anonimo. Dice delle cose che sono molto interessanti per chi segue il calcio e anche secondo me per chi non lo segue. Una delle cose che dice ha a che fare con le scommesse. L'avvento del gioco d'azzardo online ha portato con sé nuove tentazioni per i giocatori smaniosi di incassare. E esattamente come è avvenuto per i contratti di parità, fu fondamentale trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Quando iniziai a giocare da professionista, le scommesse in tempo reale durante le gare erano appena state introdotte e nessuno sapeva se sarebbero decollate, ma questo non trattenne tutti i bookmaker dall'offrirne una propria versione. Un mio ex compagno di squadra fu tra quelli che ne beneficiarono. Durante tutta la stagione, una squadra di solito vince il lancio della monetina 50% delle volte. Ma quando giochi in trasferta, anche se il tuo capitano perde il sorteggio, la squadra di casa ti lascia il calcio d'inizio per poter giocare in direzione dei propri tifosi nel secondo tempo. Se tu scegli sempre il calcio d'inizio e non ti interessa da che lato inizi ad attaccare, non è difficile arrivare a battere il 75% dei calci d'inizio nel corso di un'intera stagione. E quando questo accade, diventa incredibilmente facile scommettere su quale squadra vincerà la prima rimessa laterale. Quando ero giovane e ingenuo, pensavo semplicemente che questo mio compagno fosse senza speranza. Noi sceglievamo il calcio d'inizio e passavamo il pallone a lui, che ogni volta, senza eccezioni, lo lanciava oltre la linea laterale. Era così facile che nessuno ci fece caso, e fu solo dopo anni che, parlando di vecchi tempi con alcuni dei miei ex compagni in quella squadra, mi resi conto di ciò che accadeva realmente. E ogni volta che ancora oggi racconto questa storia a qualcuno che giocava a quei tempi, la risposta è quasi sempre la stessa. Ah sì, anche da noi c'era un ragazzo che lo faceva, gli ha fruttato una fortuna. So che la stessa cosa avveniva per tutto, per i calci d'angolo, le rimesse dal fondo, i falli e perfino i cartellini gialli. Voi siete qui. Stroncare. Verbo transitivo. Spezzare con violenza. Troncare. Far cessare. Reprimere in modo violento e definitivo. Uccidere in modo fulmineo e per lo più prematuramente. Sottoporre a una critica spietata. Demolire con un giudizio duro e severo. Stroncare un romanzo, un autore. Etimo derivato di troncare, con esse intensivo. Che cavolo vuol dire? Data secolo XIV. E se non lo sai tu, Alessandra, io faccio fatica ad immaginarlo. Per me qualsiasi cosa tu dica è grasso che cola. No, non è grasso che cola, è oro che cola. Ma no, ma anche oro che cola. No, è oro colato. Cioè, anche grasso che cola non ci stava malissimo. È un po' un'altra cosa. È che fa più schifo, semplicemente, immaginarlo. 349-238-6666. Sono le 16:36 minuti. Questa è Radio 24. È sempre un mercoledì 5 di giugno del 2013. Si parla di chiedere scusa. Lo si fa prendendo a pretesto il racconto di Filippo, che parla di un ex calciatore che a breve sentiremo direttamente. Mi scrive Gianluca. Stamattina una signora stava per lasciare il rusco sopra il bidone. Il rusco è l'immondizia. Io l'ho rimproverata e lei mi ha dato dello stronzo. Non ho risposto e ho proseguito a piedi. Dopo 2 minuti mi si affianca una macchina ed era la signora, che si è scusata ripetutamente. E poi salutiamo e ringraziamo noi Massimo Neriotti, che più o meno tutti conoscono come il Polpo, che dice: io chiedo scusa ancora una volta a Scagnolari. Ecco, devo dare ufficialmente la notizia a quelli che già mi chiedevano. Alcuni hanno mandato un messaggio chiedendomi se per caso anche al live di quest'anno ci sarebbe stato Massimo Nerriotti mi ha scritto che c'ha da fare, c'ha altro da fare e quindi non sarà con noi il 27 di giugno. 349-238-6666. La storia di oggi, la storia di Filippo, racconta di un incontro con un ex calciatore. Lui è un malato di calcio e quindi quando lo incontra, come spesso capita ai malati di calcio, immagino le vite complicatissime di calciatori ed ex calciatori da questo punto di vista, comincia a fargli un sacco di domande e gli chiede questa roba. Ma scusami, ma Costa Curta, ti ha mai chiesto scusa? Lo chiediamo direttamente a Stefano Impallomeni. Pronto Stefano, buongiorno. Buon pomeriggio. Ciao, come stai? Bene, benissimo. Dove ti trovi adesso? Adesso sto a casa, ho finito di lavorare, quindi sto a casa. Tu lavori dagli studi di Roma, non di Milano, giusto? Sì, sì, di Roma. Perché sei fisso sulla squadra della Roma? Una volta, adesso non più, perché adesso sto al TG24 tutte le mattine con Roberto Inciocchi, facciamo questa trasmissione alle 7:10, dunque... Quindi Stefano, per te non vale la solita domanda? Non vale la solita domanda che è, ma che fine avrà fatto? Perché sappiamo benissimo che fine hai fatto, perché fai il giornalista da parecchio tempo. Da parecchio tempo. E chi guarda Sky, insomma, ti conosce. Chiudiamo questa parentesi, nel senso che l'abbiamo aperta e già la chiudiamo. È già stato ufficializzato, no, che con Billy Costa Curta vi siete parlati. Ma come no? Sì. Lavorate sì. Nella stessa TV, per cui immagino. Certo, ma poi eravamo amici quando giocavamo, abbiamo più o meno la stessa età ed è tutto superato. Insomma, sono cose che purtroppo succedono e basta, è stato superato. Poi lui fece questa intervista con Riotta al TG1 quando era direttore. Era direttore, sì. E fece questa dichiarazione dopo tanto tempo e mi colpì molto, insomma. E quindi niente, superato tutto quanto. Stefano, che tipo di calciatore eri tu? Me lo ricordi? Era un centrocampista offensivo più che altro, poi potevo giocare anche come seconda punta. Ma il calcio di tanti anni fa era completamente differente da quello che vediamo adesso, quindi... Beh, ecco, guarda, scusami, io volevo arrivare proprio qui, perché molti calciatori della tua età, tu sei del 65 più o meno? 67, perdonami, sì. 2 anni in meno. La dicono spesso questa frase, no? Il calcio di oggi è diverso da quello di una volta. Poi immagino che da quello di una volta vera, tipo 40 anni fa, sia quasi un altro sport. Tu però hai giocato fino a quando? Fino al fine anni 80, giusto? Beh, no, io ho giocato, poi ho smesso giovane, ma al 94, quindi... Ma è un altro calcio, perché poi, insomma, è come quando se uno chiedesse a chi smetteva negli anni 80 che il calcio degli anni 60 era diverso, quindi ogni 30 anni cambia. Ma è chiaro, però mi dici due cose nelle quali il calcio di oggi è diverso da quello degli anni 80? Ma soprattutto dal punto di vista economico, come strutturato, come organizzato, ma anche come metodologia d'allenamento è cambiata completamente. Prima ti porto faccio un esempio stupido, terra, che ne so, prima c'era il fondo, tutte queste cose qua per fare un lavoro, poi per andare sulla velocità. Invece adesso la palestra, un altro tipo di metodologia, il potenziamento anaerobico, insomma, ci fa preferire. Okay. Io credo che sia. Quindi nella preparazione, cioè nel tipo di velocità. Anche nel gioco, tutti okay. I giocatori sono tutti molto prestanti. Senti, invece, andiamo dall'altra parte. Cioè, tu abbiamo aperto dicendo che appunto con Billy Costa Curta eravate amici e vi siete chiariti. Invece ce la si giura tra calciatori. Cioè, capita di avercela con uno e incontrarlo dopo una stagione ed essersi legata al dito qualcosa. Sì, capita spesso, credo. Poi però certe volte non si dice, ma credo che sia normale, no? Poi ecco, in questo caso c'hai un po' così un animo di che ti vuoi vendicare le cose, però insomma poi secondo me poi l'intelligenza fa sempre, è la miglior competenza, fa sempre la differenza, nel senso che poi sono cose che circoscritte al campo e devono essere circoscritte lì, insomma ci sono delle regole non scritte nel campo, quindi... Le persone che seguono lo sport lo seguono grazie ovviamente al lavoro dei giornalisti. Tu hai fatto entrambe le cose, cioè tu sei stato prima in campo e adesso lo racconti. Quanto peso hanno le cose che i giornalisti non raccontano per lo sviluppo del mondo dello sport e del mondo del calcio? O meglio, quante sono le cose che nemmeno i giornalisti vengono a sapere dall'interno degli spogliatoi e che hanno veramente un peso sullo svolgimento delle partite, sullo svolgimento di un campionato? Cioè tu puoi dire se i giornalisti sanno qualcosa o non dicono? No, voglio dire se ci sono delle cose che nemmeno i giornalisti sanno e che hanno veramente importanza. Beh sì, ma so, devo dire che anche lì nel settore del giornalismo c'è anche, ormai si va a tripla velocità, che lì è cambiato anche il tipo di fare informazione, no? Twitterizzazione, il web, tante cose, tante televisioni. Io credo che può cambiare relativamente, è importante avere sotto mano il nocciolo della notizia, la sostanza, ma sapere qualcosa, uno spogliatoio, oppure, cioè, se ti metti a raccontare delle cose, insomma, abbastanza particolari, intime, nello spogliatoio, secondo me tradisci anche la fiducia, no? Magari di un calciatore o di un atleta che conosci bene, e alla fine non riesci a dare poi le notizie che riesci poi a procacciare. Ok, quindi delle cose te le tieni per te? Beh, secondo me sì, alcune volte anche, no? È un fair play. Diciamo, c'entra, se c'è una notizia la devi dare, se è importante, ma se sono cose stupide oppure confidenze, magari no, che può succedere quando chiaro, un buon rapporto. Un gentleman agreement. Io sono dell'avviso che insomma è importante darla sempre una notizia, con garbo, soprattutto facendo un riscontro importante delle fonti, adesso facendo questo lavoro e la devi dare, poi qualche volta puoi anche toccare la suscettibilità, però insomma, poi dall'altra parte c'è anche l'intelligenza di capire che è importante darla e dunque anche se poi si supera tutto. Stefano, e poi ti saluto al volo, che fine farà il campionato, il campionato italiano? Ma in che senso? Cioè, il calcio italiano? Nel calcio italiano si deve dare una mossa, ma come ripete spesso Gagliani, che è il miglior dirigente italiano che abbiamo, purtroppo tra ricavi, tra fatturati, le cose siamo molto molto distanti, la Germania e la Spagna e tanta Inghilterra stanno su un altro pianeta, secondo me non è soltanto lo stato di proprietà può aiutare, ma secondo me ormai servono anche degli ingressi, dei soci importanti, per esempio ecco la vicenda di Toiro, del magnate indonesiano, può dare una mano, adesso non so che misura, quali percentuali, insomma, però secondo me servono i soldi, no? Ok, lo scenario è quello lì. Stefano, ti ringrazio moltissimo per la chiacchierata, buona giornata, grazie. 349-238-6666, si parlava di scuse, chiedo scusa a tutti i miei fornitori che non sono riuscito a pagare, ma credetemi, la speranza è l'ultima a morire. Francesco, grazie a Tiziano Bonini, Margherita Ina, Pietro Lacorte, grazie a Stefano D'Andrea e soprattutto a Filippo. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Marco, vivo a Casolino d'Erba, in provincia di Como. La storia di domani è la mia e parla del mio 11 settembre a Luxor. Questa è la mia storia e io sono qui.